cittadinanza, non so quanto mi hanno dato. 70 euro. No, è che 70 euro, 94. Che schifo che. Cazzo, vuol dire che 70 euro era 50. Chi come me sono tanti anni fermo là. Poi vabbè, siamo in tre. A me già mi pagano bene. No, no Gianni, in un mese 94 euro di reddito di cittadinanza, per carità. No, poi ho ricevuto, vabbè, ci hanno fermato, quindi ho anche l'integrazione. L'integrazione era 260 euro, almeno quella. Ma perché certa gente gli danno 500 euro e certe gli danno 200? Non capisco questa cosa. Vabbè, diciamo la verità, che per il reddito di cittadinanza, adesso io non so quanto Luca possa prendere, vabbè qua calo un pelo bianco perché non voglio entrare nelle parti sue, però credo che debbano dare un po' di soldi alla gente che magari ha reddito zero, capito? Ah, ecco. E uno che non lavora che reddito c'ha, scusa? Tu non stavi lavorando? Io non stavo lavorando, però quando non è che non stavo lavorando, io stavo lavorando, poi sono andato in disoccupazione per ho chiesto la disoccupazione perché ci hanno fermato, quindi siccome il contratto è scaduto il 4, ci hanno fermato il 17 se non mi sbaglio, o il 12, adesso non mi ricordo, comunque c'erano una quindicina di giorni prima dello scadere del contratto che era integrazione e quella me l'hanno pagata a parte. Il mio datore di lavoro mi voleva riassumere perché aveva fatto il contratto a tempo determinato, però non poteva per il semplice motivo che c'era questo CUDIP 19, quindi diciamo che gli hanno posto questa domanda: come fai tu a assumere del personale sapendo che lo devi lasciare a casa, quindi non è che tu lo assumi, non lo puoi assumere, così gli hanno posto questa domanda, gli hanno possibilità di non farlo, perché poi cosa succedeva? Che se io dovevo essere assunto e prendevo l'integrazione, poi la dovevo restituire io, capito? Quindi era una cosa un po' per entrambi. Lascia perdere. Io ho superato il reddito, mi hanno speso 940 euro per 4 mesi e uno stipendio intero tutto il mese di stipendio per ritornare i 5.000 euro che dovevo dare all'INPS perché avevo superato il reddito tra pensione e stipendio. Cacchio, cioè io fino a poco tempo fa, perdonami se te lo dico, ero fiero di quello che prendevi tu, perché dice caspita, vabbè, Gianni ha purtroppo quello che ha, vabbè, però è ben pagato dalla sua azienda e la sua azienda insomma è stata in gamba, che l'ha tenuto in casa pur non lavorando, pagato, però a questo punto non lo so quanto ti possa vantare di tutto ciò. A parte che le cose sono cambiate, l'azienda mi ha messo in aspettativa non retribuita adesso, c'ho la riunione il 3 rispetto all'atto del lavoro, devono fare un confronto tra me e il mio principale, ma senza cose, perché tanto io non sarei rientrato perché non ce la faccio, ti ho detto chiaramente. Io vi dico solo una cosa, l'interessante è che a me mi pagate quello che mi dovete dare e poi siamo amici come prima. Con basta, solo queste parole lì. Lo so, però è un casotto, perché nella tua situazione loro devono mettersi un pochino la mano sulla coscienza e dire no, cazzo, questo qua non può continuare a lavorare perché è in queste condizioni qua, quindi fino a che lo devo tenere in forza. Lo so, tu sei un costo, tu sei un costo per l'azienda, però d'altronde è anche una cosa che non hai voluto tu, purtroppo è successo e insomma loro si devono non lo so, magari se sono una coglionata mi già, però io mi metto nei panni tuoi e nei panni dell'azienda, perché l'azienda dice cavolo, però sto pagando una persona che non mi sta rendendo, e nello stesso tempo però mi metto nei panni tuoi dicendo caspita, non è una cosa che l'ho voluta io, mi è successa quando io stavo lavorando, quindi c'è il rovescio della medaglia anche. Se fossi stato cattivo gli avrei fatto causa per questioni di lavoro e mi avrei preso un bel sinume di soldi, perché a me i medici mi hanno detto che il femore mi si è consumato a furia di tirare pedane, di fare sforzi, di... come tu punti il piede quando tiri la pedana con il traspalla a mano, non di quelli elettrici, quelli a mano come usavamo noi, tiri le pedane dell'acqua che pesano i quintali, devi fare sforzo, devi tirare e puntare il piede, tu come punti il piede stai sfruttando il femore e ho fatto diventare la testa del femore piatta, capito? Lo so già, avrei le tue buone ragioni, però io sinceramente guarda, sino a, ti parlo sino a forse 4 mesi, 5 mesi fa, anche io ragionavo così, oggi no perché io 5 mesi fa, non so se avevi saputo, ero caduto dal ponte, praticamente inclinandomi tre costole e poi ho sbattuto la coscia laterale sinistra, quando sono caduto in terra c'era una pietra, quindi è andata a sbattere nella coscia, mi si è gonfiata enormemente la coscia, lì praticamente ho detto vabbè dai, non ho niente, non ti preoccupare, tranquillo, mi fa male un po' le costole, non volevo vedere niente in azienda giusto per non creare casini e balle varie. Tornando indietro, credimi, tornando indietro non avrei fatto quello che ho fatto oggi. Perché non sono stati, con te non sono stati bravi, dai, cioè, sono stati stronzi. Lo so, però io ti dico la verità, ti non me la scelto di fare lo stronzo perché con me sono sempre comportati bene. Avevano una certa gentilezza con me, per cortesia, già ne faccia, l'altro principale che avevo era un cane. Dove sei? Muoviti, questo per l'altro, ma questi che avevo adesso erano ben gamba. Non posso dirgli nulla, erano gentili, mi chiamavano in ufficio, Gianni cosa ne pensa, dobbiamo prendere un furgone nuovo, mi facevano sentire importante, capito? Cosa prendiamo? Cosa... E io gli ho consigliato di prendere una macchina elettrica o un furgone elettrico, così hanno fatto. Hanno preso il furgone elettrico così, dice abbiamo fatto bene a prenderlo, ci stanno meno spesa, tutto quanto, e niente. Mi mettevano anche, mi interpellavano per certe cose, mi facevano sentire importante, mentre l'altro invece era un bel di padrone. Un casino. E vabbè, d'altronde, no? Cioè, bisogna esserci in quelle condizioni lì, perché effettivamente io dopo 25-27 anni di lavoro non ho mai fatto né una malattia né un infortunio, grazie a Dio. Ultimamente mi è successo questo fatto qua, però ho notato anche, forse perché i colleghi di lavoro non erano, li avevo appena conosciuti, diciamo, quindi c'era quello che a me non mi cercare, a me io non ho visto niente, cazzo, no, non mi mettere nei casini, io guarda ero là, non ti ho visto, cazzo, e a 2 metri da me, cioè cosa ti fa pensare una cosa del genere? Che non ho voluto mettere nessuno nei casini, però sinceramente parlando io cazzo non ti reputo un uomo, perché cazzo io mi sarei esposto alla grande e dire no cazzo tu sei caduto, cazzo io ti ho visto e sei caduto anche malamente, hai capito cosa ti voglio dire? Già vabbè, comunque è una cosa che non mi interessa, l'ho superata e grazie a Dio sto andando avanti, dai. Ma infatti quella gente vigliacca, sono conigli, hanno paura di perdere il posto di lavoro e quindi non si espongono, capito? Fanno così per quello. Ehi Anna, signori, io chiudo che mi seguo Trombendi. Strano che non vi abbia abbandonato. Prima che vi abbia risposto, dai, chiudo direttamente via. Ci sentiamo domani Gianni. Ciao anche a te Tino. A domani, ciao. Aspetta, non ho capito, chi non ti ha risposto Luca? No, ma non è che vi ho risposto, dico, no. Se no non vi avrei risposto, mi sarei addormentato. ti cala la patria, va bene. Ciao Luca, ciao. Ti faccio sapere appena ritiro quella cosa, che tanto non ho avuto tempo neanche oggi di andare a prenderlo. Non ti preoccupare, se. Ciao già, riprendi, ciao. Ciao Luca, ciao, che ci sono gli amici ruttoni, cazzo. Ma sono tutto il giorno così, tutto il giorno questi spagnoli. Sono squarciato, non li sento. Neanche io, non li sento, non mi interessa, poi quasi arrivate quasi fondo scala, cosa, dove volete andare? Sì, ma ogni tanto entra a fare questo rutto, cazzo. Sì, vabbè, non mi lascia giocare, cosa ti dico? È un casotto, capito Gianni, quindi adesso stiamo, diciamo, collaborando con noi, perché chi mi ha assunto a me mi conosce da ragazzino, da bambino, anzi non da ragazzino, sapendo anche con chi stavo lavorando, è un suo parente, quindi mi ha cercato lui per, tra virgolette, aiutarlo ad risolvere dei problemi per quanto c'erano qua in cantiere qua la Pedroce, li abbiamo risolti e adesso mi vorrebbe tenere per andare avanti e cercare di fare una strada anche lui, capito? Però purtroppo se non gli danno il via anche a lui, lui mi sta tenendo insieme a un altro per fare manutenzioni, però è sempre con la speranza di intraprendere un nuovo lavoro, capito? Le manutenzioni non fanno entrare in studio, non so, purtroppo è per tappare il buco che sta facendo fare queste cose, però in effetti non rendono queste cose qua, sì ci vogliono ma non rendono entrate, dai, non rendono entrate per lui. E non so, purtroppo siamo in una condizione, un casino. Io qua devo dire solo una cosa, devo ringraziare che ho una pensione, se no sarei morto di fame a quest'ora senza soldi, capito? Senza stipendio. Lo so, ti capisco, ma io ti capisco perché ho avuto la brutta esperienza di rimanere qualche mese fermo cercando di andare avanti perché non c'erano entrate, c'erano spese, non per farti conto in tasca mia, ma io avevo per dire il mutuo, la luce, l'acqua, due macchine da pagare di assicurazione, insomma tante cose che la spesa per mangiare, e due bambini, insomma è lo sport, è quello e quell'altro. Una cosa, una che si accumula all'altra, poi fa somma, capito? Io ti dico solo una cosa, che tra stipendio e pensione prima stavo bene, ma bene, però prendevo sui 2 milioni e sì, non ti dico altro. Sì, ci credo. Ecco, tu per quella cifra lì ti hai fatto la tua vita. Oggi magari quella cifra lì non ce l'hai più e ti viene pesante, capito, andare avanti. E io ti posso dire la verità. Io li passavo pure, 2,2, 2,4, li passavo tranquillamente. Ma avevo la vita per quella cifra lì, perché vuoi la macchina nuova, vuoi il prestito, vuoi quello. Io tu pensa che avevo uno di fisso solo di rate per i cacchi miei, perché avevo mi avevo preso la moto, non so se avevi saputo, avevo il CBR 600 RR, quindi avevo quello, avevo la macchina, avevo una spesa mensile di 496 euro ogni mese, senza contare la luce, l'acqua, la roba da mangiare e quant'altro. Dopodiché poi però questa cifra qua mi era pesante, capito? Perché effettivamente il lavoro si era bloccato, però io mi avevo fatto la vita per quella cifra lì. Certo, uno in base a quello che guadagna si mette le spese, è normale. Diciamo che io, grazie a Dio, la casa è la mia, non devo pagare il mutuo, eccetera, eccetera, però le spese fisse ci sono sempre, luce, acqua, il condominio, tu non paghi il condominio, ma ne pago 100 euro di condominio quando va bene, se c'è qualche problema paghi anche di più. Lo so, ma grazie a Dio. Dicevo la verità che io avevo dato anche un bel acconto per comprarmi una casa per i cacchi miei, dopodiché mi hanno bruciato 20.000 euro e allora ho dovuto spenderne altri 40.000 per farmi la casa in campagna, che tuttora, anzi ho finito a dicembre di pagarli, quindi, però tuttora vuole continuata, no? Perché non l'ho finita, l'ho finita in parte, diciamo, l'ho finita internamente, ma esternamente vuole ancora sistemata, vuole fatto ancora un pezzo oppure una zona vivibile sopra, perché effettivamente ce l'ho quasi tutto atterrato, io ho capito, quindi non è che ce l'ho finita la parte esterna, quindi mi sono dovuto adattare, ho dovuto addirittura cercare di finire la parte di lo scantinato, chiamiamolo così, un po' l'ho dovuto migliorare perché non volevo che mio padre e mia madre stessero buttati lì in una catapecchia, e quindi ho dovuto sistemare anche a loro, insomma tante cose sono state in mezzo che mi hanno fatto pensare e ripensare che vabbè, io firmerei col sangue tutto quello che ho avuto, non è che per carità, per stare meglio in peggio è meglio così. Ah beh certo, ci sono cose più brutte, sì. Ci sono le malattie che sono più brutte dei pagamenti a futtidine. E vabbè, piano piano, io stavo bene prima, con 2600 euro campavo tranquillamente, poi io sono solo, quindi non è che abbia niente di... devo solo governarmi io e basta. Allora, vabbè, l'importante è poi far bene soprattutto i componenti familiari, per carità, perché noi, perlomeno io sono fatto così, a me preferisco accontentare a loro che per dire comprarmi un paio di scarpe oppure un telefonino nuovo che non mi interessa, capito? Quindi sono fatto così di me, sono di buon cuore io, più per gli altri che per me. E io sono fatto lo stesso, prima pensavo ai miei figli e poi pensavo a me. Quello lì senza ombra di dubbio. Io c'è Manuela che ha studiato fuori a Bologna, adesso sta lavorando, ma io continuo a mandargli sempre soldi, sempre gli mando soldi, anche se lui dice papà tanto sto lavorando, non c'è più bisogno, e vabbè c'è sempre mia figlia, non è che come le do a uno li do all'altro. Sì, infatti, dai, non fai parzialità, quindi anche mio padre e mia madre, anzi forse ti dirò di più, un pochino, una briciola un pochino più a me che a mia sorella, no? Perché mia sorella forse è stata più fortunata per via del lavoro, quindi aveva sempre qualcosina in più di me perché aveva una retribuzione migliore, poi l'ho anche passata come retribuzione io, però poi sono stato anche un pochino fermo, insomma tante cose ci sono, però vabbè, si tira avanti, si va, l'ho fatto monetario, non me ne è mai fregato niente, anzi ti dico la verità, io 600 euro in tasca penso a riempire il frigo e la despensa, poi se non riesco per dire a comprare una cosa a me non mi frega niente. Sono fatto così. Io sono complicissimo a te. Quando vado faccio spese 120, 110 euro. Quando vado bene ne spendo 80. No, io per la roba da mangiare non mi tiro indietro, prendo di tutto, dal pesce, anche se a me il pesce non piace tanto, però ogni tanto lo devi mangiare perché si mangia anche il pesce. E il cane lo tratto molto bene, lo stesso, gli do carne mattina e sera, no? Cioè il cane per me è come un figlio, ce l'ho sempre vicino. Ah beh sì certo, poi vabbè, anch'io sono del parere, io ho due cani, magari non li tratto come te perché in casa non c'entrano, però sono sempre trattati bene perché non gli manca niente. E quando ero a casa di mamma avevo un cocker che dormiva con me, giusto per farti capire la benevolenza che volevo quel cane. E guai se un giorno sì, un giorno no, mia sorella faceva il bagno, era sempre bella profumata, sempre bella spazzolata, era un bijou. Poi vabbè, anche lei ha avuto i suoi malanni e a 11 anni ci ha lasciato, vabbè, e quindi mamma non era più voluto sapere niente di cane. mentre invece io sono diverso. A me, io sì, mi affeziono sin quando c'è, quando non c'è più, morto un papa se ne fa un altro. Certo, tu pensa che io mi ho fatto il tatuaggio di Tyson nel braccio, c'ho un tatuaggio grande quanto tutto il muscolo. No, a quel punto lì c'è una amica mia che ha le impronte del piede del cane tatuate. No, vabbè, così no, non mi interessa. Vabbè, dipende dalle situazioni, sì. No, per carità, è una scelta di vita, non so giudicare la tua scelta, per carità, vuol dire che se l'hai fatto ci sarà un motivo e un perché, non è che non so io a giudicare il perché l'hai fatto o perché non l'hai fatto, no, per carità, ognuno ha le sue cose ed è bene così. Io mi sentivo di doverle qualcosa e purtroppo lui mi ha accompagnato in un brutto periodo, praticamente ce l'avevo sempre vicino attaccata a me e l'unico affetto che c'avevo in quel momento era lui, quindi è per quello che mi ho fatto il tatuaggio. Vedi, quindi è stato un compagno di viaggio, ecco, chiamiamolo così. Esatto. Lui adesso, per dire, io sono coricato, lui c'ha la copertina sopra il brilli che c'è nel letto, c'ha una copertina, ma lui si corica su quella copertina, da lì non lo muove nessuno, si trova in gomito, tutta la notte addormentato. Allora, vabbè, anche io mi sarei appoggiato più a un animale così che a un amico, tra virgolette, perché il cane, io sono amante dei cani, dei gatti no, però dei cani sono amante, che tu pensi che quando stavo cercando un cagnolino, ma io stavo cercando un Jack Terrier, ma di quelli bianchi con le chiazze marroni, no? Giusto per farti capire la razza, ma se tu già la conosci, è giusto per compagnia per i bambini, no? E questo tipo mi ha detto, ah sì, io ne ho due, se ti interessa, ti faccio vedere la mamma, mi faccio vedere la mamma, era un incrocio, ho detto, vabbè dai, vediamo come il figlio, e mi porta un cane, piccolino, nero, completamente nero, sembrava un Rottweiler, forse del Jack Russell, mi sembra che c'ha solo il nome, perché lo vorrei chiamare Jack, però del resto non ha niente. Poi questo cane, per aver visto, ha iniziato a scodinzolare, a leccarmi tutto, faccia, detto vabbè dai, me lo prendo, e me lo portavo al mare, questo cane ce l'ho tuttora, e si è affezionato a me tantissimo già da piccolino. Quando mi vedeva facendo il bagno, tu immaginate una pulce piccolissima, cioè tu pensa che nella mano, ci stava nella mano, quindi figurati, si assomigliava però a un Rottweiler. Tutta la gente che lo vedeva, ma che bel Rottweiler, niente, non voleva un Jack Russell, però non ci credeva perché mi guardava a strano, come prendeva a casa, ma questo mi stava per il culo. Vabbè, mi vedeva a fare il bagno, allora mi seguiva, ma già da piccolino, quando entravo in acqua, lui era dietro a me nuotando, figurati. Sì, ma poi qui Jack Russell, magari c'è qualcosa del Jack Russell, perché sono molto attivi, stanno sempre saltando, correndo, facendo, ti piace un bel... mi adesso ti mando un tatuaggio, te lo faccio vedere, se ti piace. Meglio. No, vabbè, a me piace anche se era un bastardino, per carità, ci mi è arrivato. Mi è piaciuto, diciamo. Ah sì, l'avevo visto già, sì. E sopra c'è scritto il nome, c'è scritto Tyson sopra. Sì. Bene, vabbè, comunque me l'ho acchiappato, me l'ho provato qua, il mio pastore tedesco, siccome è femmina, aveva avuto due perdite, diciamo, perché uno, invece che me l'hanno investito un cane tipo Jack Terrier, però incrociato, l'ho provato in strada, quindi adesso se ne è accorta lei che mancava qualcosa lì e si è abbattuta un pochino. Quando gli ho portato questo, lui la vedevi gironzolare, facendolo, la leccava tutto, lo proteggeva, guai, non voleva che nessuno si avvicinava a questo cucciolo che era talmente piccolo che ho detto, ma cosa, si corica addosso, ma se lo schiacciano. E invece no, è molto protettiva. Adesso sono uno come con l'altro, sono molto protettivi uno con l'altro. Sì, perché poi in campagna i cani sono così, dai. Sono territoriali ancora di più. Sì, no, ma già, insomma, sono... Adesso io basta che dico, dove è Jack? Dove è Jack? E gli dico, si è aiutato la campagna e inizia a cercarlo. Sai che cos'era la mia idea? Di aprire un negozio di animali, perché io sono un vero appassionato. Poi ho pensato, voi mi affeziono e non riesco a vendere. Ma, comunque, no, già protettivano con l'altro, poi fanno molta guardia. Anzi, addirittura lui è il campanello d'allarme, perché se lei sta dormendo, il pastore tedesco sta dormendo, lui è quello che dà l'allarme, no? Perché poi il padrone fa le campagne, in qualsiasi campagna lui è dentro, infatti mi dicono, non devo dare duglie, no, che vabbè, e ti mandano via, no, se mangiano la pasta del gatto. Insomma, ormai sta padroneggiando un po' in tutto, nonostante tutto è così piccolo. Ah, si cerca da mangiare anche altrove. Ui, lascia perdere. Guarda, tu pensa che, a parte che quando poi la femmina entra in calore, lui è sempre attaccato, cioè non la molla un attimo, e soprattutto non fa entrare neanche gli altri cani, perché appena sente che ci sono dei cani in vicinanza, perché giustamente sentono loro, allora inizia a ringhiare e a abbaiare, capito? Come per dire, oh ti, mica ci sono cani, allora si fa alzare dal letto, giustamente, e lo faccio mandare via, cioè lo mando via. Però è sempre attento, capito? Hai visto, tante volte i cani bastardini sono più intelligenti degli altri. Io ne ho avuto uno bastardino che faceva di tutto, dice, lo vedete, guardi, mancava solo una parola, ubbidiva, gli dicevi sì se si sedeva, plaz, sit, poi, però glielo dicevano in italiano, tutte queste parole che si dicono in tedesco, io le dicevo in italiano, siediti, coricati, eccetera, no, lui faceva tutto, dammi la zampa a destra, la zampa a sinistra, ti dava le zampe di dietro, era una cosa, e l'avevo trovato a Portotorres, era un batuffolo di cotone, bianco con la coda arricciata, sembrava un volpino, era tipo volpino peloso, così, col muso allungato, e era un cuccioletto, un cuccioletto ci avrà avuto un mese e mezzo, e mi ha fatto pena, stava piovendo, ha aperto lo sportello del furgone e c'è entrato dentro, e cosa facevo? Ce lo mandavo via e me l'ho portato a casa. Allora, no, così è, poi ti prende subito, ho una simpatia, no, io avevo, ho avuto qua un altro pastoretesco maschio e un altro maschio, però era un maremmano, che aveva padrone solo ed esclusivamente a me, cioè non voleva nessun altro, né mio padre, né mia madre, né mia moglie, l'unico padrone ero io, se io dicevo una cosa lui la faceva, se invece capitava che mia madre diceva spostati a Igor, se la guardava e ringhiava, come per dire mamma mia, allora io guardavo, bastava solo che lo guardavo io, abbassava lo sguardo e spostava. Sì, perché il cane maremmano ha un carattere autonomo, è molto a sé, addirittura è difficile anche che ubbidisca, è scritto proprio su carta che è un cane molto indipendente. Vabbè, però guarda, una volta era successo in un'estate un po' lontana, diciamo che si è messo sotto la mia macchina perché aveva caldo, e io cosa ho fatto? L'ho chiamato e gli ho detto, Igor, esci da lì che devo lavarmi la macchina. Cazzo, mi ha ringhiato, come prima, oh, metti, ho preso un pezzo di legno, di agliastro, per capirci, e gli ho ripetuto la domanda, anzi gli ho detto: Igor, esci da lì. Mi ha ringhiato. Come mi ha ringhiato? Nello stesso tempo che stavo ringhiando gli ho, perché avevo i denti e mi facevo vedere i denti praticamente, e gli ho tirato questo bastone a denti, mi ha fatto perdere 4 denti, e inizia a correre nel fondo della campagna, ma proprio quando mi vedeva si pisciava addosso. Ho detto: vieni qua, si pisciava addosso, guarda, vedi? Sì, quando si girano al padrone è brutto, Ma si è girato, no, non si è girato, mi voleva mostrare i denti e basta, niente, perché a me non mi ha mai morsicato. Anzi, per sbaglio mi ha morsicato appena il dito, per sbaglio, perché stava alzando con l'altro cane. Io stavo cercando di mantenere l'altro cane per difenderlo, capito? E praticamente nella zuffa è capitato il mio dito, ma non era colpa sua, quindi non è che. Quello era il volontario, perché quando c'è in campagna qui se sono liberi è pericoloso, perché se vanno in altre campagne si azzuffano con gli altri cani, vanno in casa in un nido, vanno via. Io ho un amico che gli sono saltati i cani, ha due cani corsi, un maschio e una femmina, e sono usciti i cani da questa casa vicino della campagna, vicino al ferro vecchio di cosa, per intenderci, ferro vecchio di Cosmino, alla campagna lì, e lì sono usciti i cani, cazzo, sono usciti i cani suoi, lui ha acceso la luce di notte, cazzo, ha visto tutti i cani col sangue in bocca, cose da guardare, da puliti, non c'erano nulla, cazzo, è andato in vicino, ha detto: ma i tre cani, cazzo, mi hanno sbranato il mio cane, l'hanno tutto fatto a brandelli, questo e quell'altro, cazzo, no, i miei cani, è un casino, insomma, io cani grandi già mi piacciono, però diciamo che adesso avrei intenzione di prendermi un Rottweiler, che c'è mio cugino che lo deve far accoppiare, e sono lì per prenderlo, però non so che carattere ha, capito? Perché io ho ancora bambini più piccoli, 7 anni, quindi insomma. Non lo so, sai com'è il carattere del Rottweiler, non lo so com'è, non lo conosco. Sì, no, se me lo consiglio lascia perdere quei cani. Il Rottweiler è un cane molto violento come cane. E ti morsica anche i bambini, sono gelosi, bastano qualsiasi cosa, cazzo, e ti morsica il bambino, ma stai scherzando. E chiedilo al Tore, quello che va al negozio di panini via Pasqua, che ha morsicato un bambino, mi pare, ma ha morsicato il suo. Sì, è registrato. Non lo so, io ho visto quello suo, è molto, però forse perché lui era solo, molto coccolato, insomma, non lo so, già, è una razza che mi piace, però sinceramente, ti ripeto, ci sto pensando più di una volta. Va bene, avanti break. Ho già detto la ruota, prima che da questa. Io con Mari che c'è entrato, quindi stavamo aspettando, buonasera. Ciao Fabio, buonasera. Ciao ragazzi, ci sto parlando da un po', sto ascoltando da un po', perché le mani impegnate, perciò non riuscivo a prendere il tassino. Alla fine non ce l'ho fatta più. Rottweiler, con mio figlio, bellissima esperienza. Bellissima? Sì, sì, ottima, ottima. Io attentissimo, non li ho mai accesi da soli, qua e là, però cioè, il cane difendeva il bambino da quando il bambino gattonava, se c'era un rumore si metteva tra il bambino e il rumore, capito? Se ne stava a distanza perché aveva capito che io avrei preferito che lui non si avvicinasse più di tanto, si avvicinava solo con me, se c'era qualcosa, qualcuno che entrava in casa, eccetera, si girava, dava le spalle al bambino, ovunque fosse, anche sul passeggino, dentro il box, non importa, il bambino era da difendere. Sì, anch'io sono di quel parere, ho fatto, perché diciamo la verità che se un cucciolo la sua infanzia, tra virgolette, del bambino viene a contatto con la loro crescita, credo che venga del naturale difendersi uno con l'altro, ecco quello che penso io, però c'è sempre un punto di domanda, capito? Non conoscendo il carattere del cane, io non mi azzarderei a dire questo, magari non perché, ma giusto perché non mi sono mai aggiornato, ecco, non mi sono informato sulla loro vita, come si comportano e come non. So che, ripeto, il male in mano è molto, ha solo un padrone, quindi quello non lo metterei, però come difesa è, insomma, non ce n'è. Cappa, del male in mano ho avuto modo di non fidarmi purtroppo, così come del fondente. Sì, ha un solo padrone, però anche il padrone deve stare attento. Del Rottweiler non è che mi fidassi più di tanto, ho messo massima attenzione, c'era il Rottweiler a casa prima del bambino. Quando è arrivato il bambino io mi sono messo mille domande, il catenaccio gigantesco pesante con i tasselli muro contro muro, questa sarebbe da raccontare a parte, perché cioè, il Rottweiler, 35 kg di cane, ha strappato qualcosa dal muro che è impossibile, e tanto più ha saltato un muro di 2,10 m senza supporto, cioè anche lì c'è da dire, ragazzi, è una bestia. E quando è arrivato il bambino mi sono messo mille domande, sempre di attento, non volevo essere vicino. Il cane ha capito che doveva stare lontano, ha capito tutto, ha capito che era mio figlio, ha capito che era piccolo, che era un cucciolo, che andava difeso, che non si doveva avvicinare, allucinante, e non gli ho insegnato niente. Lo so, potrebbe essere anche una mosca bianca, non è che tutti sono così. Beh, io penso che se il cane lo prendeva piccolo ed è sereno e sta bene, non ha traumi, capisce il suo ruolo. Io ho sempre avuto cani che non mi hanno dato problemi, capito? Di nessun tipo. Perché non c'è un cane che mi ha dato un problema. Un pincere un giorno me l'ho rosicchiato un pochino, il piede di un tavolino a casa e basta, gli altri, cioè, tutti tranquillissimi. Vabbè, comunque ci penserò ancora non mi serve, perché diciamo la verità che ne ho già due e bastano momentaneamente, però se dovesse capitare che questo mio cugino mi dice se lo voglio, è lì che devo fare uno più uno e tirare le somme, come si suol dire. Gianni, riprendi. Sì, allora ti se vuoi andare a vedere vai su internet e cerchi Rottweiler, carattere Rottweiler, e ti dà tutte le cose possibili e immaginate. Ah sì, ci avevo già pensato, non è che. No, ma al momento sinceramente già non mi interessa, anche perché non c'è, quindi non mi interessa averlo, però domani, chissà. Vabbè, ma ti puoi informare, magari se ti interessa quel tipo di cane, ti puoi informare e sapere già com'è, per farti un'idea. Anche tu hai ragione. Vabbè, ragazzi, dai, ne approfitto che adesso ne preparo due cosette per domani e poi domani mattina sveglia di sì, quindi un po' di rip ci vuole. Vabbè, rilancio il mic a Fabio, dai, aspetta i saluti e poi vado via. Sì, buon curarti, buon tutto, piacere del cuoreo sempre. Vi ho ascoltato con piacere, ho visto chi c'era, chi non c'era, eccetera, e niente. E comunque mi dà fastidio ascoltare senza dire che ci sono, sembra quasi di rubare qualcosa a qualcuno, no? Alla fine comunque sono entrato, dai, è giusto a dire la mia. Buon risveglio per domani, buonanotte nel frattempo e avanti Dabor. Sì, vabbè, lo sappiamo che ci sono sempre gli orecchi di porco che ascoltano. Ciao Tino, buonanotte, dai. Sì, guarda, non mi meraviglia se c'è anche Giulio, comunque non c'è problema. Ciao Giulio, buonanotte. Sì, è vero, ciao Giulio, buonanotte anche da questa. No, vabbè, comunque, fa piacere, anche io molte volte, sai, magari sono stanco, poi mi metto la radio un pochino di sottofondo e quando sento qualche amico che mi fa piacere entro lo stesso, che, per carità, anche non avendo voglia di parlare, perché molte volte, sai, sei stanco, oppure stai facendo cose un po' particolari al computer, stai cercando qualcosa, adesso ultimamente ero impegnato un po' anche sul fatto della scuola, sai, per i bambini, quindi impostare, fare, non mi veniva voglia perché dovevi stare attento un po' alle cose da scaricare e fare, però ogni tanto la bottiglia ci usciva, il microfono c'era sempre la mano vicino al mic per dare la mia battuta. Va bene, dai. Mi ha fatto piacere anche a me, dai, adesso si sente, dai, speriamo che continui così dal 27, almeno ci dia un po' di carica per andare avanti tutto quanto. E una maniera come un'altra, dopo il telefono, di sentirci ancora. Ok, ciao, buon PSO, buon divertimento, buon tutto, buon risveglio per domani, tante cose belle, dai, riprendi Gianni, ciao, aspetti il finale e poi vado via. Comunque detti tante cose belle anche a te. Ehi, ma c'è stata una sovrammodulazione o sbaglio? C'è qualcuno che sta parlando in qualche canale di accento. Ah, va bene, va bene, fa niente. Ciao, ciao. Lo sentivo anche a poco fa, ho fatto la prova al camerino ma non ho visto niente. No, perché credo che sia fuori frequenza o in altro canale, boh, credo, perché non sta uscendo bene, non è forte, però non è comprensibile per niente. Sì, capo, allora vedi che non ero solo io, pensavo fosse qualcuno vicino fuori canale, lontano, ho passato la certo non ho fatto da 0 a 50 per cercarlo, però... Sì, ciao Tino, adesso è giustato, ciao. Non l'ho beccato, ho pensato che fosse degli Alfa, allora ho messo altro apparecchietto che quando gira tutto, girando tutto non era nulla, ero convinto che fosse altro che potente, non lo sentivo da più. Capo, va bene, ciao ciao ancora. E anche tu. Ciao ciao Tino, avanti, ciao anche a te Giulio, avanti fa. Sei KK, mi ho confuso un attimo perché guardo l'apparecchio sbagliato, non l'ho sbagliato. E va bene, e allora niente, sì, speriamo la ragione, che la 27 insomma rimanga attiva, a me fa molto piacere. Anche a me, specialmente se ci sono persone tranquille che possono fare dei discorsi pacati, tranquilli, senza storie, senza nulla, io voglio rilassarmi, dai, siamo arrivati a un punto che mi voglio rilassare. Sì, vabbè, ma insomma, a parte qualche salmanato, io mi ricordo che ho sempre trovato delle ruote tranquille, forse io le ho evitate le ruote piccanti già. E vabbè, sì, in effetti è così. Ma dico, la notte per dire, stiamo un po' tranquilli, capito? Non ci sono portanti, non ci sono sovrammodulazioni, non c'è nulla. Sì, tranquillo, tu fai dei discorsi tranquilli. Poi c'è qualcuno magari che si addormenta ascoltando a me, ma non se la fatti nulla. Ah no, ci mancherebbe. Però è importante non nominarle, è come le nomini. Cosa? A non nominare le portanti, che come le nomini qualcuno che già lo sa che siamo ascoltati, sì. Ehi vabbè. Non si metterà quest'ora a mettere la portante, non sarà così manco di stare sveglio per mettere la portante. Se ci sei parli, con cui ascolti come fanno uccidere. Come tu hai detto la parola portante, ha acceso il valvolare per scaldarlo, capito? Fra un quarto d'ora inizia il portante. E io fra un quarto d'ora dico buonanotte, me ne andrò a letto a dormire e buonanotte. E lo devi fare. Poi se quando si sta tranquilli a me piace parlare. E non lasci tu mai, Infatti, comunque continuano ad avere questo disturbetto, questo sono slatter o cos'è? Lo senti anche tu ancora? Cosa? Senti ancora questo disturbetto tipo qualcuno fuori frequenza? No, no. Vedo questo che io ho ancora sentito. Vabbè che io qui a fianco ho un broadcast tremendo, cioè ho un'antenna che non si sa quanto tira fuori, capito? Perché la potenza la cambia ogni tanto e io mi rendo conto quando ho trovato il ricevitore che ci sono spurie nelle frequenze più allucinanti, sono più spurie perché l'altro ricevitore sono i filtri altro che Collins. Aspetta un secondo che sto rispondendo a un'amica che mi sta scrivendo. Appagappa. Allora vabbè, questo non gli pareva, questa amica ha scritto che si sta prendendo una Fiat che sono i migliori di motore, ha detto sempre di fare dal punto di vista, io ho avuto una Opel, cazzo, mi ha fatto 350.000 km senza mai farvi nulla. Vabbè, io ho smesso di contare i chilometri da quando ho avuto le Audi, prima quelli Fiat, un po' di Alfa, un bel po' di Alfa. qualche rover nella vostra 7 km. Adesso sono da quando ho Audi, ho le mie regole, perché l'olio quando viene a chilometri non lo faccio mai durare un anno, ho detto anche il discorso dell'olio che avevano fatto cambiare eccetera. No, io 9.000 km l'olio, non esiste. Faccio molti chilometri, è vero, i soliti controlli, sempre la macchina sul ponte, ogni volta che entra dal meccanico, sotto il fondo, è controllato i braccetti, eventuali trasmissioni, manco a dire tutti i diselli, eventuali rumorini, ammortizzatori, insomma. Sempre così le macchine, puoi sentire 300.000, 400.000, 500.000 km, senza problemi, anche di più. Lo so, io l'ho venduta con 350.000 km perché la usavo per viaggiare e volevo una macchina più nuova, solo che ho venduto quella, ho preso una Fiat, dico la macchina scattante, bellissima, è una freccia, però piena di difetti. Mi hanno cambiato già la batteria, garanzia, perché era difettosa. Adesso mi sta facendo questo difetto a 80 km che non si accende la parte centrale. Adesso l'ho fatta quando l'ho comprata, però non hanno mai trovato il difetto. L'ho portato, facevano i check-up e scrivevano che non si era riscontrato nessun difetto. Se lo guardi a me, gli ho fatto il filmato e gliel'ho mandato alla Fiat. Ecco, io ho finito con queste cose. Ho avuto una Ford un po' difettosa, la prima Focus che era uscita, una casa nuova tra l'altro, nuova di spacca proprio, e poi con le Fiat ne ho avuto un paio di, vabbè, ho avuto le Fiat 1, quelle erano pressoché più veri difetti, o meglio erano i loro difetti, li conoscevano tutti, i meccanici erano pratici e se la cavavano sempre. Poi ho avuto un appunto, nuova di testa anche quella, tenuta 4 anni e quando l'ho venduta era così in perfette condizioni che l'ho venduta a 1500 euro in più della valutazione. Questo per darti l'idea di come tengo le macchine di solito. Però ne ho passato, aiuta, per un falso contatto nella cittadina di Fusibi sono rimasto a piedi 4-5 volte, ho cambiato 2 volte la pompa della benzina, il meccanico non calava a piedi, cioè ragazzi, basta con queste cose, basta. Dopo che ti scotti così, poi alla fine anche l'acqua fredda, capito? Perciò le Fiat purtroppo, anche se hanno dei motori all'avanguardia, perché la Fiat ha fatto cose molto molto molto interessanti a livello di progettazione, a livello di realizzazione di alcune cose. Non so a dirti che a parte la Volkswagen, tutti quelli che si muovono con un furgone all'interno della comunità europea usano un Ducato, e forse mi hai capito il perché, no? C'è una cosa e l'altra. Però poi alla fine nella realizzazione materiali scadenti, cioè ha rovinato l'Alfa, la Fiat. No, per favore, non voglio rimanere a piedi, grazie. Ma già, sto addormentato. No, sto rispondendo, aspetta un secondo. Cioè, ma è che da bracco. Io te lo conosco. No, stavo ascoltando i discorsi dei tuoi amici, ma stavo lavorando, stavo pitturando. Chissà se c'è qualche tempo prima di finire a dare la buonanotte. Comunque mi sembra che sei Gianni doppio room, Fabio e l'altro non mi ricordo. Fino a che è addormentato, ho fatto quello che si doveva svegliare per trovare una mattina, se si dovrebbe svegliare per trovare una mattina, perciò ha scelto di riposare. E poi sono io che sono in chiusura anch'io perché devo portarmi di QTH. E doppio room che è a metà tra il barattino e i messaggi col telefono. No, ho finito, ho dato la buonanotte. Capa. Appunto sono entrato per salutarvi, buonanotte, Fabio, ci vediamo la mattina verso le 10. Io vado in QRT veramente perché diciamo che sono stanco. Infatti, stavo ascoltando ore, discorsi del cane, dei cani e tutto, io di cani ne ho avuto parecchi e ce ne ho due ancora in campagna. Bene Mela, allora vi saluto, buonanotte, ciao, ci vediamo la mattina, ciao doppio room, ciao anche all'altro amico che ho fatto corretti. Ciao, buonanotte, grazie per essere passato a salutarci Giovanni, ci sentiamo, buonanotte. Ciao Giovanni, grazie per i saluti e li ricambio molto volentieri, lo sai. Dunque del tipo è tutto, ci sentiamo domani mattina, qui ci mettiamo d'accordo, magari ci scappiamo un altro caffè, sarà molto piacere. Ok, ti vedo domani, ciao ciao. Ciao Franco, ciao. Avanti. Cappa, a dimostrazione che siamo ascoltati, siamo una bella emittente. Cosa ti stavo dicendo io? Cosa ti stavo dicendo? Quanto ci lasci ogni volta dal meccanico quando fai i tagliandi dell'Audi? Allora, se i tagliandi dell'Audi, l'olio lo compro io, quindi sono sicuro che l'olio che ci mette è quello che dico io. Sì, anche il mio meccanico, per carità, uso l'olio buono, e qualche volta così di fretta ne ho anche fatto mettere, però sicuramente su alcune A4, perché negli ultimi anni sto usando molte, ne ho avuto 4 di A4 in fila, sulla A4, su alcune meglio il Castrol, su altre meglio il Petronas, su questa qua, questa è viziata con il Petronas, mentre a me piace molto il Castrol. I filtri Bosch li compro io, li scelgo io, me li guardo ben bene, e diciamo che tra olio e filtri siamo sui 100 euro. Il lavoro lo faccio col mio meccanico, perché io sono lì presente sempre, gli do una mano anche per altre macchine, perciò si può immaginare quando c'è la mia, mi dice praticamente fatti la macchina, non mi rompere le palle, no? E poi a forza gli metto 50-80 euro in tasca, a seconda del tempo che ci vuole, perché poi lui se la guarda tutta la macchina, se la struga tutta, a volte ci sta una mezz'oretta, si rifila da sotto con la fila, capito? Fa tutte queste cosettine qua, perché sa che io faccio molti chilometri, che viaggio molto col bambino, che vado spesso a Cagliari, e anche lui si assicura bene di molte cose. Dunque in pratica non spendo neanche 200 euro di frequenza, li spendo, ma non spendo neanche 200 euro per i tagliandi. Sai quanto non che sta a me per fare il tagliando alla tip? Ho sentito poco fa già. Figurati, non ne porto più, basta, è l'ultima volta perché è in garanzia e mi devono risolvere il problema del contacchio, mentre se no mi metto un casino unito questa volta. Già stamattina mi sono scaldato e l'ho preso a bucci. Ho detto che da quando l'ho comprata che l'ho fatto ancora non ho capito che cos'abbia. E che mi si sente insieme a me un amico mio retrato che metto questa macchina, sai cosa c'è? C'ha la scheda anche difettosa, fatela cambiare perché lo stanno aspettando che ti scada la garanzia. E questa scheda non si può aggiustare, vuole cambiare. Guarda, non è solo Fiat la cosa, perché anche Audi mi ha deluso negli ultimi anni. Ma è possibile che gli difetta la centralizzata, ci sarebbero da cambiare le chiusure, lo faccio la macchina in garanzia, una macchina che costa 40.000 euro, già, non è che costa 18.000, 13.000, 22.000, costa 40.000 euro, 39.800 euro, ok? E gli dico, guardi, questa chiusura si può controllare, gli ho fatto il fogliettino con le cose da controllare, è mia abitudine, la macchina era in garanzia, la devo portare lì secondo la mia testa, tanto stanno a rompere le palle, perché poi alla fine, per me, se la macchina la tocca il mio meccanico, ci può anche fare una gara, gli altri non la devono nemmeno guardare, se non ti direi. E di questo mi fa, dice, no, guardi, la chiusura non è rotta, è consumata. Allora gli ho detto, aspetta un po', cioè lì mi sta paragonando la serratura della macchina, me la sta paragonando alla frizione, me la sta paragonando alle gomme, me la sta paragonando alle pastiglie dei freni. Indovina cosa mi ha risposto? Beh, mi ha detto sì, perché in questa serie particolare le chiusure si consumano. Poi gli ho detto, senta, guardi, c'è mio zio che ha la 126 dal 78, non ha mai cambiato la serratura. Qui ci sono 4 anelli sul cofano. Ogni volta che un carrozziere vede questi 4 anelli si frega le mani, fa pagare il doppio. Qui sono in Audi e lui mi dice che una macchina da 40.000 km in un paio d'anni si consumano le serrature. Ma per favore, cioè, con 40.000 euro non mi sembra il caso. No, tu le prendi sempre nuove. No, ho preso il vizio di prenderle usate perché ho visto i chilometri che fanno, ho visto quanto costano, perciò ho deciso che le prendo usate. Questo è un usato che aveva la garanzia, per intenderci. Ah, e le ho sempre trovate buone? Sì, sempre ultime, anche quando vabbè, ormai ho un certo naso per queste cose, quando prendo la macchina in mano riesco a valutarla bene, perché non lo so già quante macchine hai avuto tu, io ne avrò avuto indicati a peso più di una trentina, tra una cosa e l'altra. Tipo di Fiat Uno ne ho avuto una decina, tanto per iniziare, di Alfa ne ho avuto una decina anche di Alfa, e forse di Audi anche qualcosa in più, per i mezzi da lavoro, i furgoni. Alla fine ho preso un certo naso a valutarle. Per esempio, l'altra che avevo preso prima, che avevo prima di questa, era di un privato, gli piaceva la S-Line, e questo deficiente ci ha messo gli ammortizzatori della S-Line, spendendo praticamente 4.000 euro, ci ha messo la turbina del 2007, la manufattura della centralina, il cambio dei tubi dell'intercooler, gli ha rifatto la testata, gli ha aperto le valvole, gli ha cambiato la watergate, insomma, ci ha speso più di accessori che di macchina, era preparata a morte, camminava più del 2007, era 2009, questa per darti l'idea, però io da alcuni particolari del motore ho capito come l'ha trattata, ho capito cosa gli ha fatto e l'ho preso lo stesso, e mi sono trovato bene. È volatico con la macchina. Come già? È volatico con la macchina. Quando mi chiede, il mio meccanico l'ha provato la prima volta, mi chiede, è abituato a fare anche Maserati, quando sono in zona Maserati mi portano tutti a lui, la Maserati di militari, l'ho visto con tante scuole Ferrari, l'ho visto con Bugatti, che in corsa queste macchine girano. E poi io l'ho visto anche tante volte riparando le macchine della Fiat, quando non riesce a riparare la Fiat, anche in garanzia le porta da Michele. La Opel uguale, l'ho visto con macchine della Ford, cioè macchine che dovrebbero fare da altre parti, perché lì non è una marca, capito? Ha preso, l'ha guidato, ha girato nel vicolo, non c'era nessuno, ha tirato con la prima, un pezzo di seconda, ha inchiodato, si è girato, mi ha guardato e mi ha detto, cazzo, questa cosa cammina. Cioè, una volta ho visto due occhietti nello specchietto, ce l'avevo da poco, la stavo ancora provando, e ho pensato, non è che ci sono quattro anelli, no, tra questi due occhietti, riesci a vedere la bocca. Mi sono messo un po' a tiracchiare, questo mi ha seguito, a un certo punto siamo usciti da uno svincolo, c'era un pezzo di strada dritta, ho tirato la quarta, stavo tirando la quinta, e vedevo che lui faticava perché cambiava, no? Faceva tipo quarta quinta per riuscire a prendermi, non riusciva a tirare la quarta fino all'ultimo perché non c'era l'ausilio della turbina, giustamente, perché la turbina smette di dare altri regimi. Allora provava a tirare di quinta, però non gli bastava, lo vedevo quei fari che saltellavano, e non riusciva a prendermi. A un certo punto, siccome era piovuto in pomeriggio, c'era un curvone, mi aspetta un attimino, vado un pochettino piano, gli ho fatto lampeggiare 5 secondi gli stop, anche lui ha rallentato, poi c'era un pezzino di e mi ha sorpassato, e ho capito perché si stava incazzando, perché dietro c'era scritto 2.7, invece io dietro c'avevo scritto 1.9, capito? Cioè, con 2007 l'Audi non è riuscita a passare, a me che era 2009. Mica era spaventosa quella, spaventosa. Era una cosa che non finiva più. Mi si avvicinavano quindi con le macchine da rally preparate e tutto. Io magari stavo andando piano tipo 180-190, no? E questi erano convinti che a 200 avessi il muro. Io quella macchina l'ho tirata fino a 260 e di più non me la sono sentita perché... Secondo me il travaglio a quella velocità non è in grado di fare più niente, capito? Però il piede l'ho fatto io, adesso la continuo ad andare. Più che il travaglio la frenata, che non è equilibrata per quella velocità. No, ma io temo il travaglio, più che la frenata non la temo, perché se scali e ti sai dare, poi in quella macchina c'avevo anche il freno a mano, perciò ero aiutato. Per decidere che io la frenata, in questa macchina non c'è neanche freno a mano, in quest'ultima che è uscita c'è un tastino digitale, e questo mi limita anche molto, perché per me freno a mano è sempre una sicurezza. Il problema è il travaglio, perché la macchina aerodinamicamente non è fatta per superare certe pressioni dell'aria, capito? Non è un caso che se vedi le gare di velocità, quelli che tirano a 600-700 km all'ora, di più alle volte si capottano, è notato? Sì. Ma io la mia è lo stesso, cammino bene. però sempre è un 1400, però è abbastanza veloce come motore. Io sino a 198 l'ho tirata a gas, poi non me la sono sentita più la verità, perché ho detto magari dice qualche duro, qualche cane, qualche cosa che se dà ammazzi, no, non lascia perdere. La strada di Alghero l'ho tirata un po', però poi ho mollato. No già, ma cosa vogliamo dire motori Fiat? Ma stai scherzando? Motori Fiat, vabbè, tranne qualcuno, vabbè, quelli riusciti e quelli di una certa potenza, perché la Fiat fa anche la 600, se non è un motore che deve camminare, ma io quei motori Fiat, per quanto riguarda le prestazioni, cioè, raramente ho avuto modo di trovare dei difetti. Se la mia 1, modificata a morte, quello che vuoi, era 1000, ma si passava all'altra 1700, la base del motore era qualcosa di decente, insomma. Che cosa avevi messo? Molto di sferrarsi? No, la sfida mica l'ho cambiata, è che gli ha fatto una serie di cose, tipo gli avevamo cambiato l'albero, gli abbiamo messo delle birre tagliate, particolari, l'aspirazione e lo scarico l'avevamo rifatto con un trapano a colonna, ancora un po' c'entrava le valvole dentro, poi gli avevo costruito una sotto riscarico con dei tubi innocenti e dei pezzi di questi piloni di scarico di una vita della BMW. Poi cosa gli avevo fatto? Gli avevo fatto un airbox, una scatola per tirare aria meglio, con un filtro, mi ricordo se era Sparco, sì, forse era filtro Sparco, poi le candele Spitfire, quelle con le punte, con tutte le punte intorno, e una bocchetta di condizionatore per tirare aria.